È la notte giusta e ne verranno altre e altre ancora. Deve succedere. Miami è una città fantastica. Adoro la cucina cubana. I panini al maiale sono i miei preferiti. Ma ora ho fame di qualcosa di diverso. Abbiamo vedere le voci veramente, almeno a giudicare dalle lineette qui. Ma perché la scala logaritmica? Ma va, ma questa è la scala logaritmica. Sono decibel, sono decibel. Bene. Ok. E abbiamo cominciato così questo regalo che volevamo fare a tutti i nostri ascoltatori. Perché? Perché? Allora, perché ci sono stati un po' di problemi? Perché abbiamo tirato il pacco, diciamo le cose come stanno. Abbiamo tirato il pacco. Noi dovevamo fare l'ultima puntata, che era quella, la seconda parte di Lost. Dovevamo annunciare. La seconda parte non l'abbiamo fatta. Non l'abbiamo più fatta. Perché? Perché la radio è distrutta, la stanno ristrutturando. Hanno detto no, voi chiudete prima. E quindi siamo rimasti. Quindi noi... vacanza! Siamo già andati al mare. Ho nuotato dorso, stile libero. Anche la farfalla, delfini, mi riesce male. Siamo andati alla Hawaii, sono andato le collane, quelle tutte fiorelloni, tutte quelle gonnelline. Sì, è ancora luglio, non ci crede nessuno che siamo andati e tornati. Noi siamo ancora alle Hawaii e vi stiamo mandando. Senti l'acqua. Vabbè, ci manca un po' il Graziella con i suoi super effettoni, purtroppo, e quindi abbiamo Tommaso che si diletta così. Provo a fare il rumore. Il nostro caos pace. Bene, avrei un futuro da rumorista. Grazie, Piero. Quindi, siccome io non so usare il Mac, se tu mi potessi rivedere tutto quello che avevamo detto che volevamo ringraziare, salutare. Allora, perché noi cosa volevamo fare? Più volevamo concludere e chiudere. Concludere è bellissimo, il neologismo, signori. Andate su Wikipedia, sul vostro dizionario a casa, se gli volete bene, aprite. Concludere. Forse sul dizionario di Foligno c'è. Allora, noi volevamo chiudere quest'anno. Questa è la porta che si apre, perché anch'io posso fare rumorista, mica solo lui. La porta che si chiude la facciamo dopo, però. Quella dopo. Aspettiamo adesso. Ancora un attimo. È chiusa, scusa, è bene. La finestra prima. Che se no poi si chiude prima così. Vabbè, siamo due idioti. Andiamo avanti, facciamo quello che volevamo salutare, ringraziare un po' tutti quanti. Anche quelli. Perché noi alle prime puntate salutavamo tutti, ringraziavamo. Poi dopo ci hanno detto troppo fate. Poi non abbiamo salutato più nessuno. Per cui ora vogliamo recuperare. Ecco, circa quindi mezz'ora di saluti. Di saluti non fatti. Se vi siete stancati già da adesso di questi ringraziamenti e saluti, potete spegnere, potete fare stop sulla registrazione e non vi ascolterete i nostri magnifici sproloqui. Però non saprete mai se avremo salutato e ringraziato anche proprio te che ci stai ascoltando in questo momento. Te. Che inizi con la I e finisce per... We want to salutare you. Signori, quest'uomo le guarda in inglese le serie TV, secondo voi? Vabbè, meno male che a proposito di questo. Meno male che Itasa c'è. Volevamo ringraziare. A sto punto cominciamo da qui, perché senza The Italian Subs Addicted noi probabilmente qualche avremo... problema ce l'avremmo. Ce l'abbiamo più comunque. Più di qualche, diciamo. Però chi vuole capire capisca, non diremo di più sui tassi, anche se andate, cercate su Google o su Scroogle, se perché sennò no Paccio ci fa un Google così ci fa. E cercate Itasa e vedrete perché ringraziamo Itasa. Ah vabbè, lo scoprirete solo vivendo e digitando. Poi volevamo ringraziare un po' il presidente, prima di tutto perché il presidente va sempre ringraziato, sia perché c'è stato molto spesso ospite. Sì, ha raccontato sempre della macchinetta dell'ordine degli avvocati. Ricordiamo l'ordine degli avvocati, che sono lì, che si può andare. Avete un problema, ci sono gli ordini degli avvocati. Lawyers. Ricordiamo che sappiate che se incontrate il presidente, lui vi racconterà nuovamente questa storia. Sì, perché lui ha sta storia che deve spacciare, pure lui c'ha qualcosa da spacciare, lui la racconta. Non è vero, non è un monotematico, anzi. Anci. Ringraziamo Leo. Ringraziamo Leo. Ringraziamo Leo, quindi cosa vuol dire? Ringraziare i presenti di che cosa? Ringraziare l'associazione. Ringraziamo l'associazione Radio Cicletta, esatto, che ci ha dato per quest'anno la fantastica possibilità di, a noi due scemi, di andare in questo luogo fantastico che una volta era una scantinata. Una volta era. Per dire minchiate la radio, sostanzialmente. Per permettere a voi di ascoltare, pensate un po', che culo, cioè, allora, per venire a rompervi all'ora di cena per ascoltare noi due che parliamo di serie che magari neanche guardate e neanche vi interessa. No, e parliamo e sprolunghiamo per due ore, poi grazie al cavolo non ci sentiva nessuno. Appunto. Poi, chi altro volevo ringraziare? Questo ringraziamo. Allora, volevo dire quello che hai scritto, perché hai scritto... Abbiamo fatto prima un elenco qui su un brainstorm e tu hai scritto serenerai della radio. Io non so cosa tu volessi dire con questo serenerai, è un altro neologismo. Vabbè, noi ci pigliamo. Gli sceneggiatori. Apolino lo diranno tutti. Gli sceneggiatori. Quelli che ci scrivono i dialoghi. Non ci sono. Cioè siamo scemi naturali noi. Vabbè, ma comunque. Poi la produzione. La che grande produzione che siamo sempre noi. Siamo, ci ringraziamo. La regia che siamo sempre, noi. Poi. Allora, qua una cosa seria. Gli ascoltatori della prima ora che ci hanno dato fiducia. Ok. Che chi erano? Buon, non lo mia so. Mamma. Tua madre. Mia mamma. Tua zia, perché i miei coinquilini. I miei la prima volta. Cioè, e tu hai pure la prima, anche la seconda volta. Poi hanno spesso il passo. Detto non vale la pena. E poi tutti quelli che si sono uniti dopo. Della seconda ora. Esatto. Quelli che, visto il grande successo iniziale, ha detto ma andiamo a sentire questi due minchioni che parlano. E eccoli. Bravi. Poi stavo per dire una cavolata. Quelli della seconda ora, cioè quelli dopo la campanella. Andiamo avanti. Quelli che entrano in ritardo. Tutti i nostri ospiti, che sono stati tanti. Non mi ricordo più nemmeno quanti. Tanti, però qualcuno che è venuto a recidivo. Ringraziamo il recidivo Mario. Mario, perché grazie, perché sei venuto più volte e ha sempre salvato. Ci ha sempre salvato. Perché poi bisogna dire che tu sei stato a Marsiglia per un po'. Sì, quindi io ero lì solo. Povero Piero da solo. E quindi a un certo punto, quando non trovavo ospiti seri, andavo lì e mi dicevo, ma tu non la vedi una sera, tu non puoi venire. E Mario per fortuna si prestava a queste cose e veniva volentieri, diciamo, a parlare di cose. Poi soprattutto dobbiamo ringraziare Mario, che è stato di esempio per tutti quegli ospiti che sono venuti dopo. Sì. Che dicevano no, ma io non so cosa dire. E cosa noi facevamo, ascoltati la puntata su Happy Days. Su Happy Days con Mario. E tutti dicevamo, ma se l'ha fatto Mario. Se l'ha fatto Mario, perché lo ringraziamo anche per questo. Grazie. Poi ringraziamo Baciu. Perché non perché sono i politicazzi, dobbiamo dire per forza in coppia. Però allora intanto ascoltate i politicazzi anche l'anno prossimo, perché che non hanno mai fatto il podcast, quindi lamentatevi con i politicazzi che non fanno il podcast. Però l'ultima volta l'ho fatto io, quindi ora c'hanno il podcast, l'ultima puntata, quella dove eravamo tutti noi, fantastica, ascoltate, ridere, bellissima, fantastica. La trovate anche su Radio Cicletta, proprio andate lì, c'è proprio politicazzi by night, ultima puntata favolosa, andate, ascoltate. Comunque lo volevamo ringraziare perché le prime puntate, le nostre puntate, noi eravamo lì piccoli esperti che non sapevamo che fare e lui ci dava una mano. Esatto. Era lì che ci supportava in tutto questo e quindi volevamo ringraziarlo per questo. Poi sempre Paciu. Sempre lui. È nata volta. Lo ringraziamo. E perché lo ringraziamo? Perché per un anno lui ci ha introdotto. Noi siamo stati l'unico programma. Lui era l'introduzione vivente. Ad avere un'introduzione vivente. Un libro. Cioè le prime pagine del libro. L'introduzione, ecco appunto. L'introduction. Ma guardate come si riscatta adesso col suo English Belt. Con monoserie. Che fantastico programma che chiudeva mono. Purtroppo è morto. E apriva molto di spaccia. Cioè. Poi morì. Defunse. Vabbè. E basta, ciao. Lo salutiamo. L'eterno ciao. Riposo. Dona monoserie. Detto ciò, l'ultima cosa che ci rimane poi, cioè l'ultima cosa, le ultime cose che ci vengono in mente sono la TV inglese e americana, perché sennò non avremmo anche un po' italiana, perché abbiamo fatto anche una anche puntata Boris, poi. Sì, appunto italiana, anche le varie emittenti che ci hanno dato materiale per lavorare. Ringraziamo il grande, verrà detto in codice, Emanuele, e non solo, per averci permesso e prestato molti telefilm. Emanuele, io vedo Piero un attimino in difficoltà. Sto capendo. Emanuele è codice, è un nome in codice. Percettibili segnali codice, ma io non li recepisco. Il nome in codice per il famoso mulo. Ah, Vabbè, in realtà io non leggiavo tramite Emanuele, ma vabbè. Ma ringraziamo anche il famoso torrente in piena. Ecco, vabbè. Ciao Emanuele. Grazie, ciao torrente in piena, ma per piacere. Insomma, questo codice fa acqua da tutte le parti. E ora, niente, volevamo augurarvi buona estate. Se volete dei consigli, ascoltatevi la nostra ultima puntata. E poi volevamo dirvi che, siccome abbiamo avuto un gradito regalo, omaggio, un omaggio, un presente, vorremmo presentarvelo anche a voi. Ecco, in pratica, cosa è successo? Che noi abbiamo fatto una puntata, che era quella su Chuck. E io, sottoscritto scasso, ho dimenticato di premere il pulsante della registrazione e quindi non abbiamo potuto rendere disponibile in rete il podcast. Allora, cosa avevamo un ospite che era Inef. E Inef cosa ha fatto? Ha pensato di realizzare lui il podcast. O meglio, di riregistrare una nuova puntata. Senza di noi. Senza di noi. E di regalarcela. Ecco, ha fatto il tarocco degli spacciaserie. E quindi noi... La puntata tarocca. La puntata tarocca, noi lo spacciarocca ve la vorremmo fare ascoltare. Visto che non solo noi dobbiamo soffrire e ascoltare questa cosa. Scherziamo. Scherziamo, Enef, grazie mille. E quindi nei prossimi giorni verrà pubblicata anche questa, come podcast, anche sulla pagina di Facebook. Perfetto. Poi vorremmo anche ricordarvi che... Cosa? Noi vorremmo ricordarvi... Voi spettatori, ascoltatori, web ascoltatori, che molto probabilmente noi speriamo ci riascolteremo, ci potrete riascoltare. Quando? Da settembre in poi. Ma ci siamo da settembre. Boh, noi ci proviamo, non si sa se la radio vivrà. Se la radio sarà ancora viva e attiva, noi saremo lì a tediarvi ancora per un altro anno. Ma sempre il giovedì, no. Non si sa. Il palinsesto potrebbe subire variazioni. Magari ci ascolterete il mercoledì dalle 9 alle 11 la mattina. Oppure il venerdì. No, venerdì mai. Non verrò mai venerdì, lo sai. Allora, il martedì sera da mezzanotte alle 2 di notte. Il martedì, la notte potrebbe darsi. Però io sarei per il lunedì, mercoledì. Se dovessimo proprio fare il cambio. Se dovessimo proprio fare lunedì e mercoledì. Io te lo sto dicendo proprio in via ufficiosa qui. Poi così. Lunedì al posto dei politicati. No, scacciamo, no, i politicati. No, prima dei politicati. Gli rompiamo le scatole prima e poi rimaniamo lì a fare gli stupidi. Vabbè, comunque ve lo faremo sapere. Voi continuate a seguire la nostra pagina di Facebook. E noi tanto minchiata, ogni tanto ce le pubblichiamo. Esatto, sì. Qualche regaluccio. Qualche regaluccio ogni tanto si fa, anche perché stanno uscendo nuove serie TV. Per cui magari un trailer qui ogni tanto ve lo spacciamo. Una canzone qui ogni tanto ve la spacciamo. A proposito, visto che ora siamo proprio sul finale, giusto per concludere, dice, una canzone gliela mettiamo. Noi nel podcast non si può mettere, però possiamo pubblicare il video sulla pagina di Facebook. Allora, adesso vi diciamo il titolo della canzone. Esatto, si chiama Nimes. Poi dopo voi guardate il video che pubblichiamo. Poi vi diciamo vi diciamo anche chi la canta. Si chiamano Verlaine. E poi ve la andate a guardare. Cioè, nel senso, tanto la pubblichiamo noi sulla bacheca. Quindi dopo che avete ascoltato questo podcast, ascoltate quello dopo, cioè non è difficile. Esatto. Detto questo, sono già 13 minuti quasi che parliamo. Senza musica, senza, senza musica. Quindi tu quindi direi di concludere con un ciao. Ciao, vi ringraziamo di averci sopportato in tutto questo tempo. E basta. Cioè... Che tristezza. Vabbè, dai, ci vediamo a settembre, anche un mese. Dai, un mese e mezzo. Sì, dai, poco. Dai, torniamo. Buone vacanze. Buone vacanze a tutti. Ciao. Ciao.